falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia che vogliamo riproporvi oggi all'interno di queste vacanze natalizie è la storia di un uomo che ha agito come un eroe nell'ombra, perché in realtà ci sono persone che hanno dei colpi d'ala che magari salvano anche tante vite, ma che non normalmente, come dire, non arrivano agli onori della cronaca, ci arrivano solo quando succede qualcosa di grave, e intanto ogni giorno svolgono il loro lavoro, che comporta coraggio, sangue freddo, lucidità, concentrazione, con la consapevolezza di essere responsabili della vita di centinaia di persone, come per esempio i piloti delle linee aeree che attraversano i nostri cieli a bordo di bestioni da decine, centinaia di tonnellate, uomini eccezionali che svolgono in silenzio questo lavoro ogni giorno. Bene, noi oggi vi riproponiamo la storia di uno di questi piloti che si è trovato di fronte all'incubo peggiore che possa capitare a un pilota, cioè precipitare con il carico di vite che è nell'aereo che stai guidando tu. Oggi riproponiamo la storia del volo 1549 e del suo pilota Chesley Sullenberger. Per gli amici, Sully. Cactus 17.9, turn left lane 270. Cactus 15.39, hit first. Prima di tutto diamo delle informazioni generali, un po' come quando sta per partire un volo e il pilota, il comandante, dà il benvenuto a bordo. Siamo sul volo di linea della US Airways in partenza da New York, destinazione Charlotte, North Carolina, 15 gennaio 2009, pieno inverno. 150 persone a bordo più 5 membri dell'equipaggio, pilota, copilota e 3 hostess. Il tempo è bello, però fa freddo. Sul fiume Hudson che circonda l'isola di Manhattan galleggiano piccole lastre di ghiaccio. Il capitano Sullenberger si sta preparando al decollo, quello che ha fatto negli ultimi 29 anni, perché lui è nato il 23 gennaio 1951. Mancano pochi giorni al suo 58esimo compleanno. In tutti quegli anni lui non ha mai avuto un problema, pur avendo accumulato più di 20.000 ore di volo. I don't know what I would have done had I not been able to fly. Non so cosa avrei potuto fare se non avessi fatto il pilota. È un sogno che ho inseguito da bambino e ho lavorato duramente per imparare, diventare un esperto, per far sì che il volo successivo fosse sempre migliore del precedente. To try to always make the next flight better than the previous one. Sully, anzi Sully, come direbbero gli americani, è un bambino molto intelligente. A 12 anni riesce a accedere al Mensa, che è l'associazione internazionale che riunisce tutti quelli che hanno un quoziente di intelligenza superiore alla media. Lui abita in Texas, vicino a una base aerea militare, quindi è inevitabile che cresca in lui la passione per il volo. Così consegue una laurea alla US Air Force Academy, un master e alla fine il brevetto di volo, che lo fa diventare un pilota dell'aviazione americana a bordo dei Phantom F4. In quegli anni, dal 75 all'80, raggiunge il grado di capitano, diventa istruttore e entra a far parte del gruppo investigativo interno che si occupa degli incidenti aerei. Nel 1980 Chesley Sullenberger lascia le forze armate, passa all'aviazione civile, prende il brevetto di volo commerciale, poi l'abilitazione al trasporto passeggeri, si trova nella cabina di pilotaggio della US Airways, una delle principali compagnie aeree americane, che è stata attiva dal 1937 fino al 2015, quando è stata assorbita dalla American Airlines. È una delle tante compagnie aeree che hanno sofferto la crisi successiva all'11 settembre, quando molti avevano paura di salire su un aereo. Molte compagnie aeree sono finite in bancarotta a causa di quel tragico evento. Il nome in codice degli aerei di questa compagnia è Cactus, così gli operatori della torre di controllo si rivolgono all'aereo che normalmente pilota il comandante Sully. Nel 2007 Chesley Sullenberger ha fondato una società che si occupa di sicurezza di voli, di corsi di preparazione e aggiornamento per istruire piloti e equipaggi a gestire le situazioni di emergenza. Well, One of the things I've been able to do is to leverage my life experience. Ciò che sono stato in grado di fare è di sfruttare la mia esperienza, maturata in tanti anni di volo, compreso il periodo dei voli militari, e applicare quel che ho imparato, compresa la sicurezza e assistenza dei passeggeri. Anche se i nostri voli quotidiani sono considerati come una routine, non dobbiamo dimenticarci che stiamo portando un tubo di metallo pieno di gente a 7-8 miglia dal suolo, in un ambiente ostile, freddo, pieno di incognite. E il nostro compito è di riportare tutti a terra, sani e salvi. E lo facciamo con milioni di voli. And we must return it safely to the surface every time. And we do over millions of flights. Beh, è un pilota con esperienza che insegna agli altri piloti come affrontare situazioni di emergenza. Bene, lui si sta preparando a vivere una situazione mai accaduta prima. Intanto, diciamo una cosa, che molti hanno paura di volare. Io ho fatto chilometri e chilometri in macchina e in treno perché il mio chitarrista, Luigi Schiavone, per anni ha avuto paura di volare. Poi gli è passata, ma nel frattempo io sono andato a Mosca in treno, a Budapest in pullman, ho fatto di tutti i colori per assecondarlo, forse perché anch'io non mi sentivo tranquillissimo, poi vi spiegherò perché. Però di fatto l'aereo è considerato il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Forse la paura è determinata dal fatto che quando guidi ti illudi di essere artefice del tuo destino, mentre invece in questo caso c'è un altro che ti porta. Però in realtà in ogni momento della giornata stanno viaggiando 10.000 aerei in media, quindi ci sono 10.000 piloti che sono responsabili delle vite di milioni di passeggeri e sono persone per le quali l'attenzione non può mai venir meno, perché qualsiasi imprevisto va affrontato con freddezza e tempestività. Il falco e il gabbiano. 15 gennaio 2009, aeroporto La Guardia di New York. Il comandante Sullenberger sale sull'Airbus A320 sul quale deve decollare. La direzione è Charlotte, nel North Carolina. Il numero del volo è 1549. Il suo aereo è tra i modelli più affidabili del mondo e lui, lo abbiamo detto, vanta 29 anni di esperienza con migliaia di ore di volo. Al suo fianco c'è il copilota, il comandante Jeffrey Skiles, che invece ha appena ottenuto l'abilitazione alla guida e al suo primo volo su un Airbus. In cabina ci sono le tre hostess, Donna, Doreen e Sheila. Sull'aereo ci sono 150 persone, insomma in totale le persone a bordo sono 155. Catches 1549 is a squawking 7134 and we're runway 4360 at 5000. Okay, 1549, water clearance, read back, correct, on point 7, verify information, Papa. We have Papa, thank you, catch it south. E questa è la comunicazione originale. E la torre di controllo comunica ok al decollo, l'aereo rulla sulla pista, azioni di routine che vengono compiute per ogni volo, tutto si svolge con regolarità, secondo un copione ripetuto decine, centinaia, migliaia di volte. Alle 15:24 l'aereo decolla, comincia a salire, si prepara una virata a sinistra per portarsi sulla rotta stabilita. A un tratto, dopo due minuti di volo, il copilota Skiles nota uno stormo d'uccelli che si trova proprio sulla traiettoria dell'aereo. È questione di attimi, l'impossibile fare qualsiasi manovra di correzione. L'impatto è forte, l'aereo subisce uno scossone, è l'inizio dell'incubo e della paura. Mi sono girato verso Sully e ho fatto in tempo a dire uccelli, e un attimo dopo ci erano addosso. Hanno colpito il muso dell'aereo, le ali, e alcuni di loro si erano infilati nei motori. Non c'è stato neanche il tempo di reagire, che li avevamo persi entrambi. I motori si spengono, l'aereo non ha più la spinta necessaria per volare. Sully e il suo copilota iniziano immediatamente la procedura per la riaccensione dei motori. Ne basterebbe uno solo per tornare all'aeroporto, atterrare con una procedura di emergenza. E io una volta ho chiesto a un pilota d'aereo: ma cosa deve succedere perché l'aereo cada? Lui mi ha risposto: devono succedere 6 o 7 sfighe contemporaneamente. E qui siamo già a 2. Sully lancia il Mayday, inizia un dialogo con la torre di controllo che durerà 3 interminabili minuti. Check is 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013? for tonight, but we may end up in the Hudson. Joint 2760, turn left 070. Oh, 070, joint 2760. Hi, Cactus 1549, it's going to be left traffic to runway 31. Unable. La prima richiesta è ovviamente quella di avere una pista disponibile per l'atterraggio di emergenza, però c'è un problema. Virare significa tornare nel punto dove c'è ancora lo stormo d'uccelli. In questo momento, con entrambi i motori spenti, non ci deve essere nessun ostacolo che possa rallentare la discesa. La seconda richiesta è di avere una pista di atterraggio nel New Jersey, al di là del fiume Hudson. La torre di controllo comunica con l'aeroporto di Teterboro, ottiene una pista, ma mentre il copilota effettua tutte le procedure di emergenza per riavviare ancora una volta i motori, cosa che non riesce, Sally guarda l'altimetro, cioè quello che ti dice com'è inclinato e a quanto sta da terra l'aereo, perché il suo cervello deve andare più veloce del suo aereo. Lui sta vivendo veramente, letteralmente, il suo colpo d'ala, e nelle sue mani ci sono 155 vite. Lui capisce che in nessun caso riuscirà a raggiungere la pista di uno dei due aeroporti. Chelsea Sullenberger, nel corso della sua carriera, ha coltivato una passione che quel giorno, il 15 gennaio 2009, gli tornerà molto utile. La passione è quella degli aleanti. Ha preso il brevetto, insomma è diventato istruttore, conosce le sfumature del vento, perché con l'aliante non hai motori, devi acquisire, diciamo, una sensibilità enorme nel reggere la cloche sfruttando le correnti ascensionali per volare in sicurezza. Certo, un aliante è molto più leggero e maneggevole di un Airbus A320 a pieno carico. The flying characteristics of gliders, the light airplanes are so very different than of modern large. Le caratteristiche di volo degli alianti sono più semplici. In fase di atterraggio non abbiamo nessun motore frenante, cosa che normalmente abbiamo sugli aerei, che hanno una velocità maggiore e un angolo di discesa molto più ripido. And so the rate of descent was necessarily faster and the approach angle was steeper. Non c'è scelta, Sally si guarda attorno per cercare un luogo sicuro per atterrare, però ovunque ci sono case, grattacieli, ostacoli su cui schiantarsi, provocando vittime, non solo i 155, ma anche vittime a terra. Siamo in una delle zone più densamente abitate degli Stati Uniti, la situazione è terribile. Poi Sally vede il fiume, un lungo rettilineo che si apre tra le case, e prende la decisione più logica. Ok, what do you need to land? You want to try to go to Teterboro? Yes. Cactus 1529, turn right 280. You can land on runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus. La torre di controllo gli chiede: dove vuoi atterrare? Sull'Hudson, risponde Chelsea Sullenberger. La cosa sembra talmente assurda che la torre di controllo gli chiede conferma. Cioè, abbiamo capito bene? Sì, la decisione è presa. L'aereo sta planando verso terra. L'unica soluzione possibile per non creare vittime tra i civili a terra è salvare l'aereo e atterrare sul fiume. Non lo ha mai fatto nessuno prima, non c'è un addestramento per una manovra del genere, siamo in inverno, l'acqua è ghiacciata. Noi non sappiamo se Sally sia riuscito a pensare a tutte queste cose oppure no, però sappiamo che questa era l'unica decisione possibile, e sappiamo anche che il volo 1549, pochi minuti dopo essere decollato dall'aeroporto LaGuardia di New York, sta per scivolare su un fiume a due passi dall'Empire State Building. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un eroe americano, un eroe soprattutto per il suo sangue freddo, per una presenza di spirito che fa di lui veramente uno che può dire: io il colpo d'ala l'ho fatto. E il nostro uomo si chiama Chesley Sullenberger, lo chiamano tutti il comandante Sally. A bordo di un Airbus 1549 della US Airways sta vivendo uno dei peggiori incubi che un pilota possa affrontare. È uno stormo di uccelli ha impattato contro l'aereo, i motori sono danneggiati, non sono ripartiti, si sono spenti, e lui si trova a pilotare una specie di aliante. Però È un Aliante di 70.000 tonnellate con 150 persone a bordo più 5 membri dell'equipaggio. La pista dell'aeroporto La Guardia di New York è troppo lontana, è troppo rischioso atterrare nel vicino aeroporto di Teterboro perché è circondato da abitazioni. L'unica via d'uscita è tentare una manovra mai effettuata prima: planare sul fiume Hudson e atterrare sull'acqua come un idrovolante. Alla torre di controllo scatta immediatamente l'allarme e poi il contatto radar si interrompe, l'aereo scompare dai radar e allora viene allertato il servizio elicotteri che effettua i voli turistici su New York. Loro confermano che l'aereo è ancora in volo, sta dirigendosi verso il fiume a quota molto bassa. Molti cittadini di New York sentono il rumore dell'aereo, alzano lo sguardo verso il cielo, si affacciano dalle finestre e lo vedono. È la sagoma di un aereo di linea che sta attraversando New York a bassa quota, sfiora uno dei ponti sull'Hudson, scende sempre più in basso. Sono passati 8 anni dagli attentati dell'11 settembre, molti americani però non dimenticano cosa può voler dire un aereo di linea che vola tra i grattacieli di New York e il numero di emergenza 911 viene investito da centinaia di telefonate di persone terrorizzate. A bordo intanto il comandante Sully accompagna con movimenti lentissimi della cloche l'aereo nella sua planata verso il fiume. Deve scendere, questo vuol dire accelerare, deve calcolare l'angolo di discesa in modo che tutto non si trasformi in una picchiata. Sono tantissime le incognite, l'aereo potrebbe spezzarsi, potrebbe esplodere, girarsi, ribaltarsi, insomma lo scenario potrebbe essere apocalittico. Il comandante Sully trova la freddezza per comunicare all'equipaggio la frase che nessuno su un aereo vorrebbe mai sentire: brace for impact, prepararsi all'impatto. Le hostess mostrano ai passeggeri la posizione corretta, ripetono in sequenza la frase come da manuale: brace, brace, heads down, stay down. Brace, brace, heads down, stay down. 3 minuti e 28 secondi dopo l'impatto con lo stormo di uccelli, l'aereo tocca la superficie dell'Hudson. È un atterraggio violento, naturalmente. L'aereo decelera come quando i jet militari agganciano il cavo di frenata su una portaerei, ma qui è tutto amplificato dalla grandezza dell'aereo. Le telecamere fisse posizionate sulla riva dell'Hudson registrano le immagini dell'aereo che nel giro di pochi secondi si ferma tra le onde, rimane perfettamente intatto. Il più sembra fatto, ora non resta che uscire prima che l'aereo affondi. E dalla riva del fiume partono a tutta velocità alcuni traghetti che si avvicinano all'aereo per recuperare i passeggeri che si stanno ammassando sulle ali. E siamo a gennaio, l'acqua è ghiacciata, non ci si può buttare, non si può nuotare. Nel giro di pochi minuti però tutti i passeggeri vengono portati in salvo, non ci sono feriti, c'è stata qualche botta durante l'impatto, tutti riescono a abbandonare l'aereo con le loro gambe. Naturalmente l'ultimo a uscire, dopo aver contato fino a 154, cioè le 154 persone la cui vita era affidata alla sua freddezza, l'ultimo a uscire è lui, Chelsea Sullenberger, che non perde mai il controllo della situazione. Qui io unisco per un attimo il nome di Chelsea Sullenberger a quello del comandante Consalvo, già un nome che è tutto un programma, perché il comandante Consalvo è quello che è riuscito a portare in salvo l'aereo sul quale ero io, Punta Raisi 1989, corrente discensionale, l'aereo che sale e poi ritorna giù, atterra fuori dalla pista e si ferma a pochi metri dagli scogli evitando gli ostacoli che trova. Ecco il comandante che ringrazio, perché tutto quello che mi è successo dopo l'89 in un certo senso lo devo a lui, e il comandante Consalvo è riuscito a portare in salvo l'aereo sul quale c'ero io. Ma torniamo al nostro comandante Sully, perché nelle settimane successive a quella mattina del 15 gennaio 2009 la commissione di inchiesta lo interroga agli altri membri dell'equipaggio per stabilire se la scelta di atterrare sul fiume sia stata l'unica opzione praticabile. Vengono sollevati dei dubbi sul fatto che lui abbia abbandonato troppo presto l'idea di tentare un atterraggio in una delle piste proposte dalla torre di controllo. Vengono fatte delle prove al simulatore e inizialmente viene dimostrato che l'atterraggio alla guardia si sarebbe potuto fare, anche quello a Teterboro. In entrambi i casi però non è stato tenuto conto di un altro fattore, il fattore umano, perché ci sono stati naturalmente dei momenti in cui c'era una decisione da prendere che hanno fatto trascorrere più di 30 secondi prima che il comandante decidesse. Glieli vogliamo dare 30 secondi a uno che è su un aereo con i motori rotti entrambi? E così vengono fatte delle nuove prove al simulatore e viene dimostrato che non c'era via d'uscita. Scendere sull'Hudson era l'unica strada e in tutti gli altri casi l'aereo si sarebbe schiantato sulle case, uccidendo altre persone oltre ai nostri 155. Insomma, Sullenberger, e viene dimostrato, con la sua condotta salva tutti i passeggeri. Our next guest, were also vitally instrumental in saving the lives of all 155 people on board. Please welcome three more heroes, the flight attendants from US Airways Flight 1549, Doreen Welsh, Donna Dent, and Sheila Dale. Kids, come on up. I said, I think our lives have changed forever. Mi sono reso conto subito che questo evento avrebbe cambiato la mia vita. Da una parte perché mi rendevo conto di aver avuto la fortuna di sopravvivere a un possibile disastro aereo, ma anche perché ne è nata un'opportunità per raccontare a tutti quello che ho fatto e far sì che altri potessero sapere cosa fare in una situazione simile. A greater voice that we now both have about things we've been passionate about and cared about our whole professional lives. E Sully diventa giustamente un eroe, le trasmissioni televisive se lo contendono. Quello che abbiamo ascoltato era il suo intervento da David Letterman. I passeggeri lo considerano il loro angelo custode, perché lui ha salvato 155 persone e quindi ha salvato famiglie, figli, il destino di intere generazioni. È impossibile spiegare quali traumi psicologici devono affrontare i familiari delle persone che muoiono in un incidente aereo. Il colpo d'ala di Chesley Sullenberger è stato questo: aver reso migliore la vita a tante persone. E oggi la manovra di discesa compiuta dal comandante Sullenberger è entrata a far parte del manuale delle procedure di emergenza. Sully, con la sua società di consulenza, si occupa di migliorare gli standard delle procedure di sicurezza per evitare che un incidente possa ripetersi di nuovo. E per quanto siano stati fatti grandi miglioramenti nella sicurezza dei voli, e ripeto, oggi l'aereo sia considerato il mezzo di trasporto più sicuro, la storia del volo 1549 ha dimostrato che c'è sempre una componente di imprevedibilità che può causare un danno che nessuno è in grado di anticipare. E Sully, insomma, resta un eroe per tutti, e della sua storia se ne è occupata anche Hollywood. Cactus 1549, pronto al decollo? Sully. Sully. Siamo troppo bassi. Sully. Sully! Qui è il comandante. Prepararsi all'impatto. Cosa? Mio Dio. Prepararsi all'impatto! Giù la testa! State giù! C'erano 155 persone su quell'aereo. Prepararsi all'impatto! E tu eri uno di giù loro. Giù la testa! State giù! 40 anni di volo alle spalle. Prepararsi all'impatto! E alla fine sarò giudicato in base a 208 secondi. Contate i passeggeri ed equipaggio. C'è ancora qualcuno? In uscita praticamente in questi giorni, a dicembre, il film Sully, diretto da Clint Eastwood, interpretato da Tom Hanks, il film che racconta la storia di quel volo e del suo comandante. È la storia di un uomo che ha saputo affrontare un problema terribile, con la freddezza, la lucidità necessaria, quello che ha salvato molte vite umane, però che ha vissuto un'esperienza che ha cambiato radicalmente la sua vita. E lui non ha mai smesso di dividere il merito del successo di quel giorno con l'equipaggio e con tutti quelli che con delle piccole azioni hanno contribuito a trasformare una tragedia in un momento di speranza. Quando il colpo d'ala, e qui proprio di colpi d'ala parliamo, quando il tuo colpo d'ala rende felici tante persone o addirittura salva la loro vita, sei diventato un eroe. Ognuno di noi può fare dei colpi d'ala, anche se probabilmente non così clamorosi come quello del comandante Sullenberg e devo dire anche del comandante Consalvo, che ha salvato me, le mie canzoni e altre persone che erano sul mio aereo. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24 e poi ci sono i miei social, Facebook, Twitter, i nostri social, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.